Il mio orologio conta le emozioni, aspetta sotto i treni, scruta i quotidiani, non gliene importa niente. Lui muove le lancette solo quando il cuore batte. Sherlock Holmes e Arsène Lupin smascheravano gli assassini. Il mio orologio colleziona solo i minuti, quelli pieni, quelli che restano nel tempo, perché il tempo esiste solo quando una perla nel cuore scalfisce, quando lascia un segno dentro e mai perisce. Tic tac, tic tac, il mio orologio conta le emozioni. Le ore durano giorni, i minuti delle ore, e si incollano al soffitto come i francobolli, come il canto dei galli. Sherlock Holmes e Arsène Lupin smascheravano gli assassini. Il mio orologio colleziona solo i minuti, quelli pieni, quelli che restano nel tempo, perché il tempo esiste solo quando una perla nel cuore scalfisce, quando lascia un segno dentro e mai perisce. Tic tac, tic tac, il mio orologio conta le emozioni, non fa mai un passo indietro, aspetta le occasioni, come un pendolo in agguato, cammina solo a baci, fotografa gli amori, cammina solo a baci. Sherlock Holmes e Arsène Lupin smascheravano gli assassini. Il mio orologio colleziona solo i minuti, quelli pieni, quelli che restano nel tempo, perché il tempo esiste solo quando una perla nel cuore scalfisce, quando lascia un segno dentro e mai perisce. Badabadabadabadibadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadab